Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un abuso al giorno. Siamo nuovamente qui a parlare di disagio mentale. Parliamo dunque di un diritto, parliamo dunque del diritto alla salute. L'articolo 32 della nostra Costituzione tutela ovviamente questo diritto fondamentale dell'uomo, e diritto alla salute vuol dire anche il diritto ad essere seguiti se, come dire, i nostri familiari o comunque chi ci sta vicino soffre di disagio mentale. È una categoria, quella dei disabili mentali, in continua crescita. Abbiamo sentito nei giorni scorsi dal dottor Paolo Boccara, capo del Dipartimento Salute Mentale di Roma, che soltanto nella capitale parliamo di decina di migliaia di persone che soffrono di disagio mentale. Proviamo un po' a pensare quante sono in tutta Italia. Io, prima di tornare su questo argomento con due nuovi ospiti, questa volta ci spostiamo in Sardegna, ricordo la mail al quale segnalare i casi. Mi raccomando, non casi personalissimi, ma casi che possano permettere di affrontare temi che interessino più o meno tutti. La mail è unabusoalgiorno@radio24.it. Ricordo anche il blog, se volete visitarlo e parlare con me di temi legati appunto a legalità e sicurezza, che sono poi i temi che io affronto qui in radio e affronto nel giornale del quale sono inviato, vale a dire Il Sole 24 Ore. Il mio blog appunto è robertogalullo.blog.ilsole24ore.com. Parliamo ancora di disagio mentale. Do il buongiorno e il benvenuto a Giovanna Del Giudice, direttrice del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL 8 di Cagliari e portavoce del Forum Nazionale di Salute Mentale. Buongiorno Del Giudice. E do il benvenuto anche a Gisella Trincas, che è presidente nazionale di UNASAM, la federazione che raggruppa 160 associazioni a difesa dei diritti dei malati mentali e quindi in difesa della legge 180. Buongiorno Trincas. Buongiorno. Allora, io direi di partire dalla dottoressa Del Giudice. Nel vostro bacino, diciamo così, di utenza potenziale a Cagliari e provincia sono 550.000 gli abitanti. Quante sono le persone che soffrono di disagio mentale e che quindi voi seguite? Ma guardi, in realtà non possiamo, i due numeri non sono uguali. Noi seguiamo, abbiamo seguito nel 2008 più di 10.000 persone. Ma il servizio pubblico purtroppo non arriva a tutte le persone con disagio mentale, e quindi queste sono le persone che abbiamo oggi la capacità, di cui oggi abbiamo la capacità di farci carico. Certo. Nei centri di salute mentale, nei servizi territoriali della nostra ASL, che è un'ASL molto grande, costituita da 71 comuni, che lavora su un territorio molto esteso della provincia. Ecco, volevo chiederle, prego dottoressa Del Giudice. Le persone che con disturbo mentale sono disturbo mentale severo sono circa l'1-2% della popolazione in un territorio, e devo dire, verso di queste va la nostra attenzione prioritaria, perché il servizio pubblico deve prioritariamente interessarsi delle persone con disturbo mentale severo e dei loro familiari. Ecco, dottoressa Del Giudice, volevo chiederle appunto questo, visto che lei ha introdotto, diciamo, questa percentuale di disturbo mentale serio pari all'1 o al 2% del bacino di utenza di 550.000 persone, quindi stiamo parlando di circa 10.000 persone potenzialmente interessate. Ma quali sono le psicosi o comunque i problemi maggiori che si riscontrano quando parliamo di disagio mentale serio? Guardi, mi riferisco ai disturbi quali le psicosi, quindi il disturbo schizofrenico, disturbi dell'umore, psicosi legate a disturbi severi appunto dell'umore, ma anche a disturbi di personalità, nonché a disturbi quali la depressione, che sappiamo interessa fasce di popolazione estremamente significative nel nostro territorio. Anzi, io direi in assoluta crescita purtroppo in tutta Italia. Oramai la depressione, lo leggiamo anche sui giornali, colpisce fasce di popolazione che una volta sarebbe stato impensabile concepire, come ad esempio i giovani o i giovanissimi. Io mi fermerei qui per un momento con la dottoressa Del Giudice e passerei la parola a Gisella Trincas, che come dicevo è presidente nazionale della federazione che raggruppa un po' tutte le associazioni a tutela dei diritti dei malati mentali. Trincas, le chiedo che cosa manca oggi in Italia, quali sono quei 2-3 problemi che andrebbero subito risolti per fare in modo che i malati mentali possano essere davvero seguiti con costanza? Allora, diciamo che per quanto riguarda i servizi di salute mentale, quello che manca, cioè perlomeno quello che noi segnaliamo, è il miglioramento della qualità degli interventi dei servizi territoriali. Quindi noi sollecitiamo che in tutto il territorio nazionale i centri di salute mentale abbiano la capacità di operare sulle 24 ore, quindi servizi che sono in grado di affrontare quelli che sono i bisogni e le difficoltà delle persone portatrici di un problema di salute mentale, quindi le persone che hanno un problema severo, importante, ma anche le persone che per la prima volta si rivolgono ad un servizio territoriale. Il punto è questo, quindi l'organizzazione dei servizi, per fortuna sui modelli insomma c'è abbastanza chiarezza, quindi deve migliorare la qualità dei servizi e quindi l'apertura dei servizi e quindi la possibilità delle per le persone di accedere ai servizi territoriali in maniera veloce, poter ricevere dai servizi tutte le attenzioni, le cure e i sostegni di cui le persone hanno bisogno e le famiglie hanno bisogno. Ecco, Trincas, le chiedo questo. Lei ha introdotto indirettamente anche il discorso dell'assistenza domiciliare. Perché dico indirettamente? Perché se lei giustamente dice ci sono delle persone che hanno bisogno di essere seguite nell'arco delle 24 ore, vuol dire che ci sono anche delle persone che quindi possono o debbono avere bisogno di un pronto intervento o di un intervento anche a domicilio. Abbiamo ascoltato nei giorni scorsi Boccara del Dipartimento Salute Mentale di Roma dirci che questo è un problema effettivamente. Allora le chiedo, ma per affrontarlo questo problema di cosa c'è bisogno, visto che l'organizzazione lei lo ha chiamata in causa, di banalmente nuove assunzioni, di contratti a termine, di persone che siano disponibili, di volontariato, non so, ecco. Che cosa allora, lei può richiedere per affrontare diciamo al meglio il problema? Allora, diciamo che c'è un problema che riguarda i servizi e il funzionamento dei servizi, un problema più generale che riguarda la società, quindi la capacità della società tutta di farsi carico dei problemi di salute delle persone, perché le persone non hanno bisogno solo di un centro di salute mentale, quindi di tutte le risorse che un centro di salute mentale può e deve mettere in campo, ma le persone hanno bisogno anche di una società attenta e solidale, di una società che non emargina, che non allontana, e quindi qui allarghiamo la responsabilità e l'intervento chiaramente di tutti, non solo delle istituzioni della sanità, ma quelle delle le istituzioni comunali, il volontariato, le famiglie e tutti quanti. Ecco, io la fermo. I servizi territoriali, laddove sono ben organizzati, quindi organizzati sulle 24 ore con le risorse umane e professionali che occorrono per prendere in carico un territorio, quindi tutte le persone che di quel territorio hanno bisogno, devono migliorare la qualità delle loro prestazioni e devono migliorare la loro organizzazione interna. Ecco, io la fermo un attimo, Trincas, e la ringrazio davvero per il suo intervento, per tornare a Giovanna Del Giudice, direttrice del Dipartimento di Salute Mentale di Cagliari. Del Giudice, le chiedo, da voi funziona l'integrazione, diciamo così, tra i soggetti che devono assistere i disabili mentali? Io devo dire che in questi ultimi anni in Sardegna, negli ultimi 4 anni, è stato compiuto uno sforzo enorme per qualificare il interventi nella salute mentale, gli interventi del servizio pubblico, in particolare dei servizi di salute mentale, rispetto a quello che chiedeva e diceva la signora Trinkers. Va detto che abbiamo costituito e stiamo costituendo centri di salute mentale, quindi i servizi territoriali che devono farsi carico della domanda di salute mentale di un dato territorio in maniera sempre più vicino a dove la sofferenza nasce, dove la sofferenza si sviluppa. E questi servizi stanno qualificando il loro lavoro e il loro intervento principalmente territoriale, quindi a casa delle persone. Benissimo. Si è moltiplicato il numero di interventi in questi anni, il numero di interventi a domicilio delle persone. Bene, io la interrompo e la ringrazio del giudice per il suo intervento, ci sarebbe ancora da dire molto e prometto ai nostri radioascoltatori che torneremo sul tema del disagio mentale. Grazie in regia Carmelo Lauricella, in studio Laura Faggin, Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.